2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi una puntata nuova di 2024, quella del 19 luglio 2014. Benvenuti o bentornati da Enrico Pagliarini. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Però sicuramente la notizia più importante di questa settimana, di questi ultimi giorni, riguarda l'accordo fra Apple e IBM, Apple e IBM, per fornire al mercato nuove soluzioni per le aziende che metteranno insieme tutto il know-how di IBM su cloud, i cosiddetti analytics che vanno ad analizzare i, anche in questo caso, cosiddetti big data. Tutto ciò con iPhone e iPad, che sono molto apprezzati in ambito aziendale. Ci sono ancora pochi particolari su questo accordo, abbiamo chiesto di commentare alle rispettive aziende, ma per il momento non c'è nessun commento ufficiale a parte i comunicati stampa. Sicuramente è stato annunciato lo sviluppo di un centinaio di applicazioni business sviluppate proprio per iPhone e iPad. Vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ma sicuramente questo è un accordo che ha molto senso, perché IBM è molto forte in ambito aziendale, non lo è così tanto Apple, anche se i propri dispositivi, i propri terminali sono molto apprezzati anche nelle aziende. Ho parlato con molte aziende che utilizzano magari iPhone e iPad, ma con software di altro tipo, quindi unendo queste competenze sicuramente l'offerta sarà molto interessante. Adesso abbiamo alcune notizie in breve della settimana concentrate nelle nostre Digital News. Digital News. Iniziamo da una notizia che riguarda l'Italia e il nostro mercato dell'ICT. A fine 2014 il trend degli investimenti in ICT dovrebbe passare da meno 4,4 registrato alla fine dello scorso anno a un timido più 0,6%, quindi comunque il dato è positivo. La stima è stata annunciata questa settimana da Assinform, che ha aggiornato il proprio rapporto annuale, ricordando che il settore ha un giro d'affari in Italia di 65 miliardi di euro. Tutte le componenti più innovative di questo settore, cioè il cloud, i servizi mobili, i pagamenti elettronici, l'e-commerce, la security, l'internet delle cose, sono tutti in crescita, ma valgono ancora una frazione del totale, quindi ci sono ampi margini di sviluppo e di crescita, vale a dire che su 65 miliardi di euro valgono 13 miliardi. Ci sono alcune novità sul fronte dei pagamenti elettronici. Visa ha lanciato in Australia, Canada e Stati Uniti il nuovo Visa Checkout, che permette di effettuare un pagamento usando solo username e password, quindi senza inserire il numero di carta di credito, un motivo in più per raggiungere maggiore sicurezza in questo settore, anche se sappiamo che i livelli di security, di sicurezza nei pagamenti elettronici sono molto elevati. E questo è un servizio che farà concorrenza a PayPal e anche a MasterPass, il servizio analogo di Mastercard, sul quale tra l'altro penso ci saranno novità anche per il mercato italiano, quindi rimanete sintonizzati, come si dice, perché avremo novità anche su MasterPass. Altra novità che riguarda il sistema dei pagamenti è il nuovo sistema peer-to-peer lanciato da SIA, che è un'azienda italiana che sta alla base del funzionamento del Bancomat e di molte altre cose che riguardano i pagamenti elettronici. Questo sistema permette di effettuare un bonifico ad un contatto della propria rubrica telefonica. UBI Banca è la prima banca italiana a lanciare questo servizio e un test è già attivo a Bergamo. Sicuramente parleremo anche di questo in una delle prossime puntate di 2024. Secondo i ricercatori di Trend Micro, che è una delle più grosse società di sicurezza al mondo, sono 890.000 le applicazioni Android clonate che si trovano su store di terze parti. Quindi non sul Play Store, ma su altri store Android. Sono applicazioni che sembrano quelle originali, ma in realtà nel 50% dei casi sono maligne. Secondo questa ricerca, queste applicazioni, se scaricate, possono esaurire il credito, rubare dati, possono arrivare fino al controllo totale del dispositivo da parte di un estraneo. Quindi attenzione a scaricare applicazioni non conosciute, soprattutto su store non conosciuti. Amazon ha lanciato Kindle Unlimited, un servizio che permette di leggere un numero illimitato di libri ad un canone di $10 al mese. per questo motivo viene definito all you can read. Sapete che ci sono i ristoranti dove paghi una quota e mangi tutto quello che vuoi, all you can eat, in questo caso all you can read, tutto quello che puoi leggere. Il catalogo è di 600.000 titoli, il servizio è al momento disponibile solo negli Stati Uniti. Un'ulteriore conferma della potenza di queste aziende che stanno, come dicono alcuni operatori del settore, distruggendo il mercato. Sono talmente forti, un po' come un rullo compressore che passa e tutti gli altri devono adattarsi. Allora, altra operazione a proposito della potenza di fuoco: con una semplice email, l'amministratore delegato di Microsoft, Satya Nadella, ha annunciato il più pesante taglio di personale nella storia dell'azienda. I 127.000 dipendenti di Microsoft diventeranno meno di 110.000 nel giro del prossimo anno, e di questi 12.500 sono ex dipendenti di Nokia, che sapete che è stata acquisita ed integrata all'interno di Microsoft. E anzi, Nadella ha detto: questo processo di integrazione deve diventare sempre più veloce, dobbiamo diventare un unico team, vedremo se ci riusciranno. Nadella aveva già illustrato come l'azienda si deve trasformare in modo per diventare molto più semplice nell'organizzazione, molto più flessibile, un po' come molti dei concorrenti di Microsoft. Aveva già illustrato tutto ciò in una precedente email. Sempre questa settimana è stato anche annunciato l'abbandono totale di Android e quindi l'eliminazione di Nokia X, che erano alcuni terminali a basso costo basati su una versione particolare di Android. Un'ultima notizia arriva dalle Nazioni Unite, perché è stato pubblicato un documento molto interessante, si intitola Il diritto alla privacy nell'era digitale. L'alto commissario ONU per i diritti umani, Pillay, ha denunciato a Ginevra un'inquietante mancanza di trasparenza e di controllo delle politiche e pratiche di sorveglianza digitale dei governi, in generale in tutto il mondo. Ha ribadito i chiari obblighi dei governi di proteggere il nostro diritto alla privacy. Purtroppo in molti casi questo appello rimarrà lettera morta. Adesso cambiamo argomento. Da questa settimana il servizio di Mediaset, che si chiama Infinity, arriva anche su Chromecast, che è la chiavetta USB che si attacca ai televisori e fornisce contenuti aggiuntivi via internet, una chiavetta inventata da Google. Allora, quindi diciamo, da questa settimana è possibile vedere sul proprio televisore HD i contenuti presenti su Infinity. È un tassello di una espansione su tutti i terminali, quindi non solo su computer, su tablet, ma anche su console da videogioco, su TV tramite Chromecast, eccetera eccetera. Allora, ricordiamo che Infinity è una piattaforma di video on demand su internet che per 10 euro al mese permette di vedere un numero illimitato di film su un catalogo di 5.000 titoli. Poi molti consumatori giustamente dicono che questi 5.000 titoli, ma questo non vale in generale per tutti i servizi internet, non sono granché, ma qui c'è un problema di royalty e anche in questo caso le case di produzione e di compravendita dei diritti dovrebbero un po' rivedere la policy, perché bisogna anche in questo caso adattarsi all'evoluzione digitale. Allora, i principali concorrenti in Italia di Infinity sono Sky Online e Team Vision. Allora, diciamo che come policy nei confronti dei consumatori mi piace vedere su Sky Online e su Team Vision il prezzo già nella prima pagina. Invece Infinity ha fatto come Netflix negli Stati Uniti: nella home page non vedi nessun titolo e dicono registrati gratuitamente per 15 giorni, però uno non conosce. Per secondo me, come trasparenza, bisognerebbe mettere subito il bel prezzo, così uno sa a cosa va incontro. Allora, la piattaforma tecnologica di Infinity è stata sviluppata in Italia da Accenture. Ne abbiamo parlato, perché sicuramente questo è un tema molto interessante, con Angelo Morelli, che è il responsabile globale, quindi di tutto il mondo, di Accenture Digital Video Services. Noi abbiamo realizzato tutta la piattaforma, nel senso di tutto il software che consente di gestire il servizio, ad esempio la proposta commerciale, l'interazione con l'utente, le applicazioni su tutti i device, ci sono, sono supportati tutti i device come tablet, smartphone, connected television, piattaforme come gaming console. E abbiamo realizzato anche la trasformazione dei contenuti nei formati necessari per essere erogati su questi dispositivi. Tutto questo fatto in Italia? Tutto fatto in Italia. Tengo a sottolineare il fatto che abbiamo un team italiano di circa 500 persone che lavorano su queste tecnologie video, non solo per Mediaset ma per clienti in tutto il mondo, e che sono un'eccellenza nel mondo del video, diciamo, in generale, per l'importanza dei clienti, anche per la rilevanza e l'innovazione che stiamo realizzando. A proposito del mondo, visto che voi avete clienti appunto in altre nazioni, anche grossi broadcaster pubblici o privati, che cosa sta succedendo nel mondo del video? Se noi guardiamo all'evoluzione della proposta commerciale del video, sicuramente noi parliamo molto di streaming digitale online on demand, ma in generale che cosa sta succedendo e soprattutto quali sono i paesi più interessanti? Allora, c'è sicuramente un grosso incremento dei servizi on demand. Se all'utente viene data la possibilità di scegliere fra la tradizionale televisione, quindi canali lineari sui fruibili in maniera passiva, quindi l'unica scelta del cliente è il canale che può vedere, rispetto a un mondo on demand in cui il cliente decide di vedere cosa vedere, quando e su quale dispositivo, vediamo che c'è una forte tendenza ad andare in questa direzione dell'on demand. Alcuni dati sono alcuni mercati come gli Stati Uniti, ma anche il Nord Europa, si arriva al 25% delle persone guardano TV on demand nel prime time, e questo è solo l'inizio, penso. C'è da aspettarsi che i canali lineari diventino non una parte residuale, ma una parte legata soprattutto ad eventi, quindi pensiamo a sport, pensiamo a cose che devono effettivamente essere viste in uno specifico momento, mentre ci sarà una lenta ma costante migrazione verso l'on demand. On demand che non significa solamente un catalogo di contenuti, ma significa anche funzionalità come Restart TV, per cui sto guardando un canale lineare, posso rivedere il programma dall'inizio, o un registratore, che viene chiamato in gergo Network PVR, quindi un registratore che risiede nella cloud, nella rete, e consente quindi, dovunque ci troviamo, di registrare un programma e di poterlo poi rivedere dovunque ci troviamo su qualsiasi dispositivo. E questo fa sì che l'utenza cambi proprio le abitudini. Questo in termini di user experience. In termini di mercato assistiamo ad un consolidamento sempre più spinto del mercato. Se guardiamo a quello che sta succedendo negli Stati Uniti, tra la fusione ad esempio tra Comcast e Time Warner Cable, vediamo un consolidamento nel mondo dei distributori di contenuti. Senta, a proposito di banda larga, visto che questo è un tema di cui si discute spesso, di quanta banda c'è bisogno per far sì che questi servizi di video on demand e streaming possano affermarsi sul mercato? Non parlo solo dell'Italia, ma possiamo anche accennare all'Italia. Sì, ma in generale diciamo che i servizi si adattano alla banda disponibile sul mercato, per cui se guardiamo in paesi in cui operiamo, in cui la banda larga è disponibile in quantità importanti, come ad esempio la Gran Bretagna o l'Olanda, lì abbiamo contenuti in alta definizione che vengono erogati su molteplici schermi all'interno della casa. Questo perché chiaramente, essendo disponibile una banda dedicata a questi servizi superiore ai 20 megabit al secondo, possiamo avere più schermi che ricevono contenuti in alta definizione. In Italia abbiamo purtroppo ancora una DSL che mediamente è intorno ai 7-10 megabit al secondo, per cui riusciamo a pilotare, come nel caso di Mediaset, contenuti anche in alta definizione, però tipicamente su uno schermo, massimo due schermi. Chiaramente tutto quello che sta succedendo in termini di ampliamento della banda disponibile sulla rete d'accesso aiuterà l'erogazione soprattutto dei servizi in alta definizione su più schermi. Quindi secondo me l'accento non è tanto sulla qualità del servizio, perché secondo me la banda disponibile adesso è sufficiente per contenuti anche in alta definizione utilizzando tecnologie come adaptive streaming, ma il tema sarà quanti schermi potremo pilotare attraverso la banda larga all'interno della casa. E questo, per questo sarà necessario sicuramente portare fibra almeno fino al cabinet, cosa che Telecom Italia sta facendo. Questa era la voce di Angelo Morelli di Accenture Digital Video Services. Alcune considerazioni su quello che è stato detto, anche su questa evoluzione della banda larga, tra poco a 2024. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo questa puntata di 2024, il nostro indirizzo di posta elettronica se volete comunicare con noi è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Twitter, nella nostra pagina Facebook, ma comunque spesso l'email lascia qualche spazio in più. Dunque, adesso, come dicevo poco fa, alcune considerazioni su gli investimenti in banda larga che stanno facendo gli operatori, in modo particolare Telecom Italia. Però sicuramente nel breve periodo quello che sta facendo sia Telecom Italia e anche Fastweb è, potremmo dire, sufficiente per erogare questi servizi, cioè i servizi di cui abbiamo parlato, di streaming video online e on demand. Questi operatori stanno estendendo, lo ricordiamo, il tratto di fibra ottica che fino ad oggi arriva nelle centrali fino agli armadi stradali, quindi si allunga il tratto di fibra ottica e si riduce il tratto di doppino, del vecchio doppino di rame che arriva e continua ad arrivare in casa nostra. Quindi prima di tutto diffidate da quello che dicono gli operatori che vi portano la fibra ottica. Beh, è fibra ottica fino ad un certo punto, dopodiché prosegue il doppino di rame. Allora, è un investimento fatto tenendo conto degli economics di Telecom e di un debito che non permette di fare investimenti superiori. È un investimento che, lo abbiamo detto più volte, non è positivo per il sistema paese, non è un investimento lungimirante per il sistema paese, che dovrebbe invece, cioè il paese, lo Stato dovrebbe avere una visione a 20-30 anni e non a breve periodo. Quindi gli operatori stanno facendo una operazione ottima per i loro obiettivi di breve medio termine, ma il sistema paese dovrebbe invece guardare un po' più in là. Allora, una tipica visione di uno Stato che investe in una infrastruttura è essenziale per lo sviluppo del paese. Serve, lo abbiamo detto più volte e lo diremo ancora, anche con alcune interviste ad alcuni esperti, serve la fibra ottica fino all'appartamento, fino alle aziende, perché solo così si può tenere testa alle richieste del mercato. Solo così si può costruire una pubblica amministrazione digitale e solo così si possono mettere le aziende in condizione di competere con il resto del mondo, perché oggi la banda larga è importante quanto l'energia elettrica è, come dicono molti, e mi piace questa definizione, la nuova utility. Ed è proprio per questo motivo che lo Stato dovrebbe farsi carico di questo investimento. Tra l'altro un investimento che non è a fondo perduto, ma è un investimento sul quale poi, una rete sulla quale poi transiteranno gli operatori che pagano una quota, e quindi è un investimento che nel medio-lungo periodo si ripaga tranquillamente. Un investimento, come si dice in questi termini, in questi casi, bancabile. Ne abbiamo parlato più volte e torneremo presto. Anche perché tutto ciò, il più grande problema di tutto ciò è che gli operatori hanno sempre meno soldi. Infatti questa settimana la relazione annuale dell'attività dell'Agicom ha parlato anche di quello che sta succedendo nel settore delle telecomunicazioni. Allora, tutto il settore delle comunicazioni sul quale vigila l'autorità per le comunicazioni ha perso rispetto al 2012, nel 2013, 5,4 miliardi di euro, meno 9%. Il valore complessivo è sceso a 56,1 miliardi. Le sole telecomunicazioni hanno perso 4,2 miliardi di euro. Il presidente dell'Authority Cardani, nella sua relazione, ha parlato sì di un aspetto positivo per i consumatori, che sono i prezzi in flessione. Il processo di liberalizzazione degli ultimi anni ha portato l'indice dei prezzi al consumo delle telecomunicazioni a decrescere del 44% negli ultimi 15 anni. E io mi aspetto che questa crescita, oltre che rallentare, si inverta anche per un processo di consolidamento che inevitabilmente arriverà anche in Italia, nel nostro paese. Si parla da tempo, si discute nel settore di una possibile fusione, integrazione fra Wind e Tre, cosa che probabilmente accadrà nei prossimi mesi. E quindi anche questo porterà sicuramente ad uno stop di questa discesa dei prezzi, anche perché tutto ciò, se è un beneficio per i consumatori, ha portato ricavi in flessione per gli operatori, che non possono investire. Questo è un altro dei motivi per cui dovrebbe essere lo Stato a fare un certo tipo di investimenti. Comunque, a proposito di dati, i ricavi degli operatori sono diminuiti nel fisso da 18,5 a 17,2, meno 7,4%, nella rete mobile da 20,4 a 17,2, meno 13,8%, e quelli totali sono crollati del quasi 11%, 10,8%, a 34,4 miliardi. Allora, gli investimenti complessivi, e questo è un altro problema degli operatori, sono diminuiti da 6,3 a poco meno di 6 miliardi, ma l'Authority attende una ripresa degli investimenti per la realizzazione dei piani a banda larga degli operatori. Vedremo. Sicuramente qualche cosa accadrà soprattutto nelle città, sta già accadendo, perché i piani di Telecom per portare l'infrastruttura ad una evoluzione così come l'abbiamo descritta poco fa ci sono, e sono attivi mese dopo mese. Di questo, ma soprattutto di un capitolo molto importante che viene spesso citato in questa competizione, di questo mercato molto frizzante delle telecomunicazioni, abbiamo parlato con Vincenzo Novare, che è l'amministratore delegato di Tre. Di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato anche del dibattito che c'è a livello globale, non solo in Italia, del grande potere che stanno assumendo i cosiddetti over the top, gli operatori che lavorano sulla rete internet utilizzando una grande quantità di banda e sfruttando gli investimenti che gli operatori sia di telefonia fissa che di telefonia mobile devono fare e stanno facendo per tenere testa alle richieste del mercato. Questo è effettivamente un grande problema, anche perché molti di questi operatori sono americani. Sentite che cosa ci ha detto Vincenzo Novari. È evidente che lo squilibrio deriva dall'analisi economica delle differenti componenti della catena di valore su cui operiamo. Chi ha la produzione dei contenuti, ma soprattutto chi ha la gestione delle piattaforme, oggi è in una situazione di vivere delle sostanziali asimmetrie rispetto ai capitali investiti, nel senso che con poco sono nella condizione di obbligare invece chi fornisce le pipe d'accesso a investire, e investire in maniera crescente, perché la quantità di dati richiesta dal mercato avviene in maniera crescente. Cioè, quindi tradotto, è molto facile fare con poca spesa, fare YouTube, è molto difficile creare una rete che supporti il traffico di YouTube. Assolutamente sì, ma non solo, ma ovviamente il mercato, cioè i singoli clienti, si aspettano un video di YouTube che si carichi sempre più velocemente, che fruisca sempre più rapidamente e il cui costo del dato trasportato sia sempre più basso. E questo per definizione viene alimentato dalla quantità di contenuto che viene caricato in rete, ma non sta in piedi come modello economico, nel senso che evidentemente gli operatori di telecomunicazioni sono costretti a investire sulle reti, ma a costi marginali crescenti, o meglio a ricavi marginali crescenti, e questo evidentemente rischia di andare a mettere in crisi il sistema. Qual è la soluzione? La soluzione è evidentemente un lavoro fatto in comune da tutti gli operatori del mercato, dove in qualche maniera ci sia corresponsabilità tra coloro che giustamente pretendono di avere questa massa di contenuti messi in rete e coloro che poi devono fare gli investimenti. Finché non riusciamo a sederci a un tavolo e a tutti insieme vedere come risolvere questi problemi, e secondo me fino a quel momento lì sarà difficile riuscire a stare dietro a quello che è una tendenza ormai, secondo me, da cui indietro non si torna. Questo è un obiettivo che si può raggiungere anche grazie a una regolamentazione che potrebbe cambiare sulla spinta di alcuni suggerimenti che gli operatori di telecomunicazioni stanno già facendo da molto tempo. Ma secondo me sì, anche perché, voglio dire, al di là di questo c'è anche uno, fatemi dire, una sorta di scontro geopolitico in atto, no? Perché se poi andiamo a vedere tutti gli operatori del mondo delle telecomunicazioni, stiamo parlando soprattutto di soggetti europei, quindi stiamo parlando di tutti gli operatori che operano sia a livello nazionale che a livello sovranazionale, ma che sia a livello di componente diciamo di radio, di reti radio, sia componenti di apparati, più o meno sono tutti in Europa e in Asia, mentre i grandi OTT sono tutti in America. Quindi, voglio dire, sostanzialmente gli europei lavorano per far arricchire gli americani. Attualmente però sta cambiando molto poco in Europa da questo punto di vista. Uno dei grandi temi è, ad esempio, cercare di cambiare alcune regole relative alla neutralità della rete, ma c'è stato uno scontro molto forte e tutto questo fa sì che non si muova nulla. Assolutamente sì, il problema è, ritorniamo sempre alla madre di tutti i problemi, che è l'Europa. Insomma, l'Europa si deve dotare di una politica industriale comune, deve far fattore comune. Il mercato europeo ancora oggi è un mercato, è il più ricco mercato, perché evidentemente, guardando la componente quantitativa ma soprattutto la componente di valore, il mercato europeo è un mercato assolutamente importante e centrale. E se gli operatori europei non fanno sistema, non si mettono insieme, non discutono una politica industriale da poter contrapporre a chi invece questo sistema riesce a farlo molto bene, difficilmente ne riusciremo a uscire. Tuttavia, voi state facendo degli investimenti, voi come operatore, voi tre, ma diciamo tutto il mercato sta facendo degli investimenti per aumentare la capacità della rete. Con quanta fatica riuscite a soddisfare le esigenze del cliente per far sì che non si lamenti troppo del video di YouTube caricato? Ma la fatica è enorme, anche perché evidentemente i conti economici iniziano a faticare a stare insieme, quindi è per definizione, voglio dire, quello che è stato fino ad oggi è che vediamo, e che è tangibile, è una perdita di competitività dell'Europa rispetto agli altri paesi. Cosa voglio dire? Se andiamo a prendere il GSM è stato un sistema in cui, voglio dire, il 2G è stato un sistema in cui l'Europa ha stravinto la guerra rispetto a tutti gli altri continenti. Sul 3G un po' più a fatica, ma siamo riusciti ad averla meglio, ancora una volta essere i primi a farlo meglio e a farlo in maniera rapida. Sul 4G vediamo che invece siamo indietro. Cioè, l'Europa, la verità è che sul 4G ha degli investimenti, un rollout della rete 4G che è indietro rispetto all'America, è indietro rispetto all'Asia, e evidentemente questo è un trend. Allora, o ci si siede e si affronta il problema in maniera chiara, oppure evidentemente il mercato dovrà subire le conseguenze. Che rapporto c'è tra la rete mobile oggi 4G, ancora fortemente 3G, e una buona distribuzione di fibra ottica sul territorio, che immagino serva anche per alimentare le vostre antenne? Ma è assolutamente, sono i due lati della medaglia. Cioè, da una parte noi dobbiamo potenziare le reti radio, e qui si pone tutto il tema famoso delle antenne. Noi, la copertura nostra deriva dalle antenne, se non ci fanno mettere le antenne o il percorso burocratico, i limiti sono troppo forti, noi non riusciamo a dare copertura, e abbiamo bisogno sempre di copertura, perché quando si mette la rete 4G non è che si toglie la rete 3G, quindi sono antenne che vanno aggiunte, e quindi evidentemente è da ricominciare tutto il lavoro, i permessi, le autorizzazioni, il fondo elettromagnetico e quant'altro. Dall'altra parte è evidente che queste antenne poi devono portare il segnale attraverso la cosiddetta rete di trasporto, e questa oggigiorno ancora in Italia per molta parte è fatta col doppino di rame, e questo non con i cavi di rame, con i cavi 2 megabit. Ovviamente questo non riesce più a seguire quella che è la potenzialità della rete 4G, quindi per noi è fondamentale avere una rete che prima di tutto colleghi tutte le antenne alle centrali, cosa che oggi in buona parte dell'Italia non c'è ancora. Se noi guardiamo all'operatore, ad un moderno operatore di telecomunicazioni mobile, che cosa c'è di nuovo oltre al 4G, anche in termini di servizi? Ma è difficile ragionare in questi termini perché oggi tutto lo sviluppo è ancora fatto sulla tipologia di trasporto dati che si cerca di deliverare al cliente. Evidentemente però tutte le aziende stanno cercando di proporre nuovi servizi, cercando di proporre nuove soluzioni. Noi di recente abbiamo lanciato questo Cubo, che è questa possibilità attraverso una rete mobile di avere segnale wifi in casa, e ovviamente sono innovazioni, sono novità che noi ci cerchiamo di proporre al mercato, ma è indiscutibile che oggi purtroppo la nostra, diciamo, gran parte della nostra attenzione principale sia alla pura rincorsa al trasporto, alla pipe, e quindi all'attenzione a una competizione sui costi che, ripeto, in buona parte sta creando problemi a una di quelle industrie, che è quella della telefonia mobile in Italia, che era il fiore all'occhiello. E così concludiamo questa puntata di 2024. Io sono Enrico Pagliarini, come sempre grazie ad Anita Panizza che ci aiuta in redazione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Questa puntata è disponibile nel nostro sistema podcast, quindi vi consigliamo di abbonarvi o di suggerire ai vostri amici e ai vostri parenti di abbonarvi, se voi siete già abbonati, gratuitamente questo ottimo servizio, che è un po' come dicevamo prima il video on demand. Questa è la radio on demand. È tutto, ci risentiamo la prossima settimana. 2024.